Bumblebee. Hello everybody, my name is Fergal Kavanagh. Abbiamo Fiore alla regia e voi avete sentito dalle 14 questo pomeriggio la classifica presentata da Luca. Grazie Luca. E adesso noi vi accompagniamo fino alle ore 20, quando arriverà la cronica, la radio cronica del calcio Napoli stasera. Tanto da fare questa sera dal grande Napoli per cambiare questa classifica. E speriamo bene. Comunque ne parliamo alle ore 19 con Sport Time. Sono in vostra compagnia adesso. On Radio Tour, the moving station. Ragazzi, il GSM Box è attivo, 0348 24 38 888. Sono già arrivati tanti messaggi che leggo nel prossimo oretta. E nel frattempo voglio salutare a Roberta che sta a casa ascoltando Radio Tour. Hai mangiato bene, Roberta? Spero proprio di sì. Ladies and gentlemen, the clock. La 17. Si sente proprio di essere su una spiaggia, magari a Cuba o magari anche a Rio de Janeiro, dove si fa pieno estate adesso. Questo credo non è portoghese come parlano un brasiliano, se non sbaglio, e lo bel spagnolo che sempre dà l'aria di fiesta. Il brano si chiama Ponernos di Acuerdo e lei si chiama Mazzola Morello. Ecco, spero di averlo pronunciato bene. E questo è il nostro new hit poco dopo le ore 17. E ragazzi, che domenica bestiale lei che ci aspetta. Napoli che giocano stasera purtroppo a Palermo, però una partita in casa con grande Edmondo contro la sua vecchia squadra fiorentina. C'è tutto da aspettare e noi siamo insieme a voi fino ad allora. Vorrei sapere se è coinvolto Mick Hucknall in questo brano. Mick Hucknall sarebbe il cantante di Simply Red e assomiglia proprio a lui questo Woman Child. Questo Duke si chiama il cantante o il gruppo in questo caso. Comunque è un bel pezzo e di solito schifo i Simply Red, quindi insomma un po' di qualità con quella voce. E devo salutare allora Saverio che dice siete bravissimo da San Giuseppe Vesuviano. Poi salve, volevo mandare un sweet kiss a Stefano, il mio angel, e dirgli che le voglio tanto bene. Lì sono vicino, questo da Francia a Napoli. Ciao, sono Monica a Mondragone. Saluto tutti quelli che mi conoscono, in particolare il mio Adriano. E poi saluto Anna e Rosito. Un enorme bacio da Amy da Pozzuoli. Thank you very much, all of you. Buongiorno, buongiorno. Souls of Love, that's ATV on Radio Tour, the moving station. E questo, anche se noi l'abbiamo in programmazione da un po' su Radio Tour, è uscito da poco in Inghilterra e sta avendo un discreto successo lì. E quindi noi Radio Tour siamo stati proprio in anticipo di una cosa a livello inglese, eccetera. Quindi siamo grossa, possiamo dire. Poi, allora, Sette ha scritto, vorrei dire a Roma che le amo. Spero che non stai parlando della squadra. Poi a Napoli non ci dia un'altra delusione, ci ha scritto Tonino di Palma Campagna, ecco, speriamo prossimo. Saluti anche ad Elena e anche a Raffi 88 della provincia di Caserta, lei voleva sentire un brano, però non possiamo accontentarti attraverso il GSM Box, però adesso potete telefonare al 081 790 14 11 per richiedere il Just For You, il brano che scegliete voi. Di Paolo with the Vuelti e Vuelti, e saluti a Missy che sta studiando la storia. Meno male che ci sei tu a tenermi compagnia, dice. Grazie. E poi oggi è andato a mangiare in un ristorante con i suoi, anche lì ha ascoltato, è stato sintonizzato su Radio Tour. Why, thank you very much, because Radio Tour is the best. 0348 24 38 888, quello è il nostro numero del GSM Box. And the number of our Just For You request line is 081 790 14 11. E questo numero ha fatto Francesco a chiedere un brano per Francesca, Independent Woman from Charlie's Angels, Destiny's Child. I pick up the bass beats and melody, the Brooklyn bounce. Essere a live on mix questo domenica pomeriggio, comunque è proprio bello come si muove. Noi siamo in attesa di collegarci con Fabio Brescia che sta in giro oggi e sta al supermercato facendo un po' di spese. Infatti stavo parlando con mia sorella questo pomeriggio, ho detto che fai, e lei ha detto vado a fare il shopping, ho detto di domenica, pazzi siete, pazzi. Comunque sembra che così dappertutto ormai. Allora adesso andiamo avanti, ti ricordi quella bella canzone I'm Out of Love, of course you do, from Anastasia. Allora, che ha combinato adesso? Not That Kind. Showing, ok Raffaele, ciao a te, hai scritto vorrei conoscere un quarantenne e mi hai lasciato tuo numero di cellulare. Oh, comunque, se dici sul serio che vuoi veramente metterti in contatto con qualcuno o qualcuna, è la cosa di fare di ascoltare Radio Tour, programma di Rosanna. Harry ti presenta Sally ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 22 fino a mezzanotte. Questo è il mio consiglio a te. E noi Radio Tour, mamma mia, quante iniziative! Siamo proprio The Moving Station. E dove ci troviamo oggi? Dove troviamo? Troviamo al centro commerciale Meridiana con Fabio Brescia. Just for you, in tour. Connessione telefonica. Se vi ricordate, nel 1984 c'era un brano molto famoso, molto successo, dai Frankie Goes to Hollywood, del nome Relax. E infatti quello ha avuto in parte del suo successo è dovuto al fatto che è stato censurato, ecco, da BBC in Inghilterra. E praticamente devo dire che 15 anni dopo mi presentano questo brano, The New Millennium Girl. Non vi faccio la traduzione a quello che sta dicendo, però è assai peggio. Non credo che questo brano avrebbe molto successo, o forse avrà molto successo in Inghilterra, però non attraverso la radio sicuramente. O sbaglio, forse la nostra società è andata avanti abbastanza per mettere parole così in onda. Chissà, comunque il nostro GSM Box, ciao Daniele, Aniello che sta studiando. Buon studio, come ti puoi addormentare con Radio Tour accanto a te? Eh sì, la storia italiana, economia e altro, vabbè, ti capisco. Ah, well. Eh sì, che noia. Questo è Buongiorno Mattina e questo è Pierpelù. E il fatto è che il pezzo precedente di Pierpelù mi piaceva molto perché faceva ballare, faceva muovere. Ma questo... Wow, Fiorentina pure questo Pierpelù. Quindi è giusto che adesso la facciamo a pezzi. Ma come si promette di presentarsi proprio questo giorno, oggi? vabbè, piano piano, perché speriamo che i Napoli ce la fanno. No, però speriamo anche che sia una bella partita, anzi più importante che la facciano, no? Ragazzi, 98 gradi, magari quello è caldo, sì. Last Dance, ultimo ballo, and that's our new hit per quest'ora, alle ore 18. Hello again, my name is Fergal Kavanagh. E ecco, i super funk rientrano un'altra volta, grande questo. A muovere con me al ritmo di questa musica abbiamo il console Gino Nuzzo e saremo insieme fino alle ore 20. Alle ore 19 parliamo un po' del sport in anticipo di questa partita stasera e arriva pure John Free, Giffone, che parlerà di tutte le cose tecnici, Gianluca Giffone. Ok, in attesa di lui, in attesa di tutte belle cose, andiamo indietro col tempo con 883. Ah, with the Don't Tell Me, bello questo pezzo, è bello il successo che sta avendo pure. E a proposito di successo, grazie a Gregan che mi ha scritto chiedendo: sei contento della vittoria dell'Irlanda contro l'Italia di rugby? E certo che sono contentissimo. Per quelli che non sapete, l'Irlanda a Roma ieri hanno battuto l'Italia con il bel risultato di 40 punti contro il 22 dell'Italia. E un certo soddisfazione c'è stato, anche se non sono un grande fan del rugby, però questi incontri fanno sempre piacere quando vincono l'irlandese, no? Siete d'accordo? No, immagino proprio di no. Comunque, forse Irlanda in queste sei nazioni, speriamo che il numero due saranno l'Italia, va? 8-1 on Radio Tour. Oh, ed il telecomando è proprio quello che vi serve se siete davanti al televisore a vedere lo sport questo fine settimana. Ma che sport che abbiamo! Allora, c'è la partita stasera. Ieri c'era quel grande partita dell'Italia-Irlanda di rugby e c'è anche il Iron Volley e abbiamo noi Radio Tour, il nostro collegamento lì con la Rachele Scognomiglio. Rachele, raccontaci tutto. Buonasera. We're looking for happiness. Il happiness si trova proprio con Radio Tour, your moving station. E infatti grazie a Lucia, perché Lucia ci sta facendo della pubblicità, ha detto: ho trovato altre due vostre nuove ascoltatrici. Grazie, la tua pubblicità veramente funziona. Andate fortissimo. Grazie, bacione. Dotte, thank you very much. Io anche a te. Saluti a Paola e Vale. Allora, il nostro numero del GSM Box è 034. 348-24-38-888. È un modo di passare questo domenica pomeriggio insieme a mandare i messaggi a me. Io poi vi saluto a tutte quelle persone che vi sono simpatici e cari. E adesso l'articolo 21-31 with volume. Articolo 21, e poi ho deciso che dobbiamo alzare proprio il volume e chiamarli articolo 31. Ecco il mio modo di giustificare questo gaff mio. Però intanto articolo 21 o 31 fa nessun differenza, perché fa sempre muovere questo bel brano il ritmo. Sabato sera è finito, domenica pomeriggio è qua, però siamo sempre liberi a fare quello che vogliamo. E io voglio ballare, comunque vediamo se riesco a continuare a ballare. Vediamo che ci presenta un ascoltatore che telefona. Pronto? Connessione telefonica. Request one. Mi sa proprio di sì. Allora grazie Fede per il telefonato e ti accontenterò con i Top Loader and Dancing in the Moonlight. With Saving Mary. Allora ragazzi, stasera si parla di Saving Napoli, va? Perché Mario ci ha scritto, Mario da Gragnano, e ha detto: un'occasione da non perdere, 2-0 con Edmondo e Amoroso. Forza ragazzi, e sì, forza ragazzi questa sera, perché dobbiamo salire di questa zona B, perché non mi piace proprio, mi fa arrabbiare. E ragazzi, infatti, a proposito di arrabbiarvi, non lo so se avete mai sperimentato il road rage, cioè la rabbia di stare per strada. Praticamente una ricerca dice: se uno porta una macchina, guida una macchina di colore nero, è molto più probabile che si arrabbierà, si inca, se è stato se diventa provocato per strada. Quindi if you don't like it, ragazzi, you better like it. Hey kids, allora ciao ad Angelo ed Elio Dossarno, che si trovano già a Palermo per vedere il grande Napoli. Uè, rossa ragazzi, e buon divertimento lì stasera. Connessione telefonica. Request one. E adesso accontentiamo Stefano. Questo è Lionel Richie for you with Angel. Cose su cui possiamo sorridere a proposito del sport. Sto parlando del volley e l'AI in Napoli. E ci racconterà tutto Rachele Scornomiglio. Radio Tour in Tour. In diretta al Soul Nuggets. If you wanna. Yeah, live on mix. Mi pare proprio questo lo mette sempre spesso. Anzi, mi pare che siamo proprio sabato sera qua. E quindi quando scendo dallo studio dopo, che vado a fare? I discoteche non saranno ancora aperti. O lo saranno, chissà. Comunque, Makey ci ha scritto. Ha detto: ciao a tutti, siete mitici. Volevo far sapere a Gianluca di Solmona che è buonissimissimo. E che non vedo l'ora di rivederlo. Ecco a te. Questo sono i OMG and How Bizarre. Sì, infatti Gino Nuzzo qua mi stava dicendo: oh, tu che sei irlandese le pronunci OMG, come ho detto. E infatti era un po' ridicolo. E a proposito di cose ridicolo con il cambio tra italiano ed inglese eccetera, quella Lara Croft, come si chiama quel gioco sul PlayStation? Io lo chiamavo sempre no, ho sentito gli italiani che la chiamavano Tomb Raider. Allora, Tomb Raider, ma chi è questo signor Raider? Il nome del gioco è Tomb Raider, cioè quello che ruba le tombe, non Tomb Raider. Ladies and gentlemen, the clock. Le 19. Radio Tour. The moving stage. Le descrizioni di un attimo. Proprio diverso questo, e non lo so se ha proprio la magia di quel brano preceduto. Questi sono i Tiro Mancino e Muovo gli Alli di nuovo. Allora, ragazzi, my name is Fergal Kavanagh, c'è Gino Nuccio al Technical Stuff and così via. E noi siamo insieme fino alle 8 stasera, alle ore 20, quando arriverà la partita in diretta da Palermo. Allora, stavo controllando lì con Gino a proposito di questo Tomb Raider, e lui si è meravigliato del fatto che veramente si chiama Tomb Raider, non Tomb Raider. E stavo pensando, ma ci sta qualche parola italiano, anzi inglese, che voi avete cambiato in italiano, che potete pensare voi, oppure viceversa? Magari mandatemi un bel messaggio 0348 24 38 888, e così analizziamo la situazione insieme. scoperto, si chiama Neville veramente, quindi Imagination il brano e Neville il cantante. E ragazzi, è uscita una bella domenica sera, ho messo le teste fuori dalle finestre lì e vedo che ci sono delle nuvole, però è freschetto e si sta proprio bene. E sapete che c'è l'Ice Park a Maschiangino adesso, Radio Tour, The Moving Station lo presenta, un villaggio invernale con giochi, spettacoli, ristori per la prima volta a Napoli, una pista di pattonaggio su ghiaccio, tutti i giorni dalle 10 alle 24, un evento comune di Napoli, Coca-Cola, Pringles e Radio Tour. Ice Park, Napoli, Maschio Angino, Radio Tour c'è. E alcuni anni fa pensavamo non avrebbero mai avuto un'altra hit, però invece sono uno dei gruppi più che hanno avuto più successo nel 2000 e bravi loro. A proposito di persone che hanno successo e sono bravi, andiamo un po' al centro commerciale Meridiano dove troviamo il nostro Fabio Brescia. Oh no, wow, fa ballare pure questo pezzo, infatti mi fa ricordare di stare allo stadio addirittura, perché questo è il tipo di musica che Radio Tour ci mette per pomparci prima della partita. E ragazzi, la partita è veramente vicino, alle 8 inizia il vicina, mi sta correggendo qua, va bene. Oh, allora a questo punto leggo pure questo messaggio che mi è arrivato. A proposito di lingue straniere, si dice precedente, precedunto al massimo potrebbe essere un gioco della PlayStation. Ho detto io preceduto in onda, non mi ricordo, mi dispiace. Comunque, a proposito della partita, volevo farvi presente che nel 97 i Napoli hanno incontrato Fiorentina e hanno pareggiato 1-1. Ci basterà stasera? Fatemi sapere la vostra pariera. You're listening to Radio Tour, The Moving Station. Allora, stavamo parlando di parole un po' strane, come si pronuncia, eccetera. E Federica ci ha scritto, ha detto, hanno fatto tanto polemiche sulla pronuncia della parola Titanic. Come si pronuncia correttamente? Allora, si pronuncia bene Titanic. Lo ripeto, Titanic. Tutti quanti insieme, 1, 2, 3, Titanic. Vai! Bravissimi. E poi è arrivato un messaggio non firmato, dice sei un pariaggio, traducilo se riesci. Allora, immagino che stai parlando un po' di come parlo, eccetera, mio italiano, eccetera, ma mi sono informato. Allora, pariare vuol dire divertirsi, però viene dalla parola, anzi di sua origine volevano dire digerire, perché la gente dopo aver mangiato si mettevano intorno alle tavole a pariare, e certo se sei un buon in compagnia si parea, no? Allora, questa risposta è stata buona per te? Spero di sì. Pubblicità per noi. Five and Back in Time, questi italiani che stanno avendo successo international. Back in Time, torno indietro col tempo, e vabbè, suonano sempre le stesse musiche, però oh ragazzi, comunque tanti messaggi che stanno arrivando, che delle gente che ci apprezzano, grazie tantissimo. Allora, non è firmato questo, però dice è molto che non vi mando un sms, ne approfitto per dirvi che siete grandi, grazie tantissimo. E poi è arrivato questo da Vale, grazie, dice Fergal sei grande, qualche volta perché non parliamo? Dopo mangiato ovviamente, baci da Vale, grazie tantissimo. E magari sì, dipende che c'è sul menù, però se no prendiamo una bella birra insieme, va? Poi è arrivato un messaggio da Lax che voleva sentire un bellissimo brano, però Lax, sai che non ti possiamo accontentare attraverso il GSM box, devi telefonarci. E sapete come fare? Alzi il cornetto del telefono, fai il numero 081 790 1411, ci risponderà Gino a mettere il vostro brano preferito, però dovete dire voi, dovete decidere, quindi fatelo subito. Nel frattempo per voi Hooverphonic and Mad About You on Radio Tour. About You, sono pazzo per te, e questo, pazzo di te, anzi si dice in italiano, e questo lo dedico a Skipper che ci sta ascoltando a casa, grazie Skipper. Pronto? Connessione telefonica. Request one. E accontentiamo Roberto che ha telefonato, vuole dedicare, anzi Roberta che vuole dedicare un canzone a Rosaria, questo è Foo Fighters and Next Year. Station, ragazzi, si avvicina proprio il momento della partita, e quindi c'ho un sacco di messaggi da leggere a proposito della partita, però non le leggo ancora, le leggo magari più tardi. Leggo questi che non riguardano la partita. Amalia, ti amo, questo viene da Beppe. E poi ciao, sono male, sto male, mi sono lasciato con Enzo, non so cosa fa. Mi dispiace sentire questo fatto, però non ti preoccupare, la cosa migliorerà più di là, perché il mio motto è se le cose vanno male, tra poco le cose miglioreranno e spero che questo ti aiuti, speriamo almeno. Comunque ragazzi, siamo alla radio in movimento, quindi andiamo al centro commerciale Meridiano dove troviamo Fabio Brescia. Boys on Radio Tour, the Moving Station. Veramente ragazzi, la partita all'inizio inizia, sta arrivando e infatti tutti i messaggi qua a proposito del Napoli, ho deciso, se mi permettete, di lasciarlo a cura di Gianluca, in modo che Gianluca Cipone, che arriverà dopo il punto ore, in modo che lui se ne tratte, che sicuramente sa molto di più del Napoli che io sono un grande tifoso, questo è vero, però lui capisce più le cose tecnici. Allora, messaggi che non hanno da fare col calcio, vorrei mandare un bacio molto sexy a Daniele, questo grazie viene da Giacomo, ecco. E poi, how are you? I'm really fine, do you remember me? Many kisses for you, thank you very much. E poi è arrivato uno che mi piace moltissimo, da Simona, dice, chissà se a letto sei dolce quanto la tua voce, sei stupendo. Oh, Simona, sono rimasto senza parole. La risposta, devo dire, sì, spero lei di sì. Anyway, Paolo Anchiara for you. L'amore è bello, ma la musica contribuisce a renderlo eccezionale. Viva la musica e le donne, grazie Mimmo. E poi anche un bacio forte a Chris che ci sta ascoltando. Lei è pugliese, quindi immagino che non è molto contento del risultato oggi. Che ne pensi a questo risultato del Bari questo pomeriggio, Gianluca? E allora buonasera a tutti, buonasera Fergal, buonasera a voi ascoltatori. Da Gianluca Gifuni ovviamente vi terremo compagnia con il calcio, con lo sport e con il Napoli fino alle 23:30 di questa notte. I risultati di oggi, insomma, sono confortanti per il Napoli, no? Si è messa male per il Bari, per il Verona e per il Vicenza. Il Verona ha giocato ieri nell'anticipo con il Perugia. Solo il Brescia, insomma, una squadra che superasse il Napoli, questo ce lo dovevamo attendere, quindi infatti, però, il male minore è stato questo. Noi a questo punto siamo sempre terzultimo, eh? Sì, siamo terzultimi fino a questo momento. Il Napoli è terzultimo, gioca questa sera una partita importante che non è azzardare molto definire alla propria portata. E se noi riusciamo a prendere questi tre punti che sono in teoria in casa, che punto andiamo? Andremo a 17 punti, a pari punti con il Brescia, e riusciremo a superare sia il Vicenza che il Verona, quindi saremo in zona salvezza. Wow, per la seconda volta in due o tre anni. È accaduto dopo la partita con la Lazio di un mese fa, dopo il successo olimpico per 2-1, il Napoli andò per la prima volta in zona salvezza. Potrebbe accadere nuovamente questa sera, staremo a vedere. Ascoltate ovviamente la nostra radiocronaca a partire dalle 20:30 dallo stadio neutro di Palermo. La favorita, Raffaele Orema, ci racconterà in cronaca diretta i 90 minuti di Napoli-Fiorentina, ultima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Ovviamente il commento a cura di Gianfranco Lucarello, ma i dettagli a fra poco. Allora devo scappare proprio perché c'ho 30 minuti per raggiungere Palermo, non ce la faccio mai. Ragazzi, è il tempo di andare, stasera forza Napoli. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Gino Nuzio che ci ha tenuto compagnia con le console, e grazie a voi di nuovo, alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock. Le 20.